Il quarto tra i sette segreti di Bologna riguarda la Torre Asinelli. Alta 97,2 metri, con la sua inclinazione di 1,3 gradi e lo strapiombo di 2,23 metri, è la torre pendente più alta d'Italia. Attenzione, non la più pendente. Il primato spetta alla vicina Garisenda, 4 gradi contro i 3,97 gradi della Torre di Pisa. Le due torri sono uno dei simboli della città e ne caratterizzano fortemente il paesaggio urbano, ma di certo non sono le uniche. Le torri hanno cominciato a sorgere a Bologna a partire dall'undicesimo secolo, durante la lotta per le investiture, con le famiglie più potenti che iniziarono a schierarsi dalla parte del Papa, i Guelfi, o dell'imperatore del Sacro Romano Impero, i Ghibellini. Sebbene non sia chiaro il motivo che ha spinto alla proliferazione di questa sorta di grattacieli medievali, l'ipotesi più accreditata vuole che la costruzione di una torre per una famiglia fosse al tempo stesso simbolo inequivocabile del suo prestigio e strumento di difesa e di offesa nei confronti delle famiglie di schieramento opposto. Sappiamo che all'epoca le dispute politiche finivano spesso per risolversi con scontri armati. La Torre Asinelli è la più alta e la più celebre torre di Bologna e, pur essendo di datazione incerta, si suppone sia stata edificata tra il 1109 e il 1119, anche se analisi scientifiche basate sulla termoluminescenza la collocano tra il 1075 e il 1100. Non è un caso che sorga in corrispondenza dell'antica porta ravegnana, che all'epoca segnava il confine della città in direzione Ravenna. Probabilmente in origine faceva parte della rocca fortificata con la quale Matilde di Canossa manteneva il dominio sulla città nei primi anni del 1100. La Asinelli doveva essere una torre di avvistamento per prevenire eventuali attacchi da est. È possibile che per tale fine sia stata iniziata la costruzione della Garisenda, poi abbandonata dopo un cedimento del terreno sotto le fondamenta. In ogni caso, il primato di torre più antica della città spetta proprio alla Garisenda. Della sua forte pendenza scrisse Dante Alighieri nel 31° canto dell'Inferno. «Qual pare a riguardar la Garisenda sotto il chinato, quando un nuvol vada sovressa sì che ella incontro penda. Tal parve Anteo a me che stava a bada di vederlo chinare». Il sommo poeta si riferiva a un curioso fenomeno che si può osservare ancora oggi posizionandosi ai piedi della torre. Se una nuvola spinta dal vento si avvicina dalla parte pendente, sembra che non sia la nuvola, ma la torre stessa a muoversi, inclinandosi sempre di più per andare incontro alla nuvola. La Garisenda fu mozzata di circa 12 metri per ordine del cardinale Oleggio. Ricordate? Ne abbiamo parlato nel primo capitolo del libro, per il timore che crollasse. Verso la fine del XIX secolo venne rafforzato anche il basamento, con l'installazione del rivestimento in grossi blocchi di selenite visibili ancora oggi. In ogni caso, con la morte di Matilde di Canossa, 1115, e l'insurrezione popolare che ne seguì, la rocca venne distrutta. La Torre Asinelli fu risparmiata, per poi essere acquistata successivamente dall'omonima famiglia, della quale abbiamo notizie a partire dal 1185. Analoga sorte deve aver seguito la Torre Garisenda, dal XII secolo legata al casato di Filippo e Oddo Garisendi. Gli Asinelli cederanno al comune la proprietà della loro torre nel XIV secolo. Dopo questa lunga premessa, torniamo all'argomento di questo capitolo. Il quarto dei sette segreti di Bologna è il vaso rotto in cima alla Torre Asinelli. La torre è visitabile, pagando un biglietto d'ingresso, e sono certa che molti di voi lettori avete approfittato di una bella giornata di sole per salire i suoi 498 gradini, per poi, una volta in cima, godere della splendida vista sull'intera città. Ma sulla sua sommità avete forse notato dei cocci? No? La cosa non mi stupisce. Il vaso rotto in cima alla Torre Asinelli, infatti, non esiste e non è mai esistito. Si tratta quindi di una bufala? Non esattamente. Chiamiamola narrazione con cui l'ideatore di questa leggenda ha trovato un modo per raccontare la città dall'alto e allo stesso tempo simboleggiare la capacità politica di Bologna di risolvere i conflitti. In effetti, nei suoi 900 anni di vita, la torre è sopravvissuta a ogni genere di calamità. Nel 1398, probabilmente a causa della disattenzione del custode, presero fuoco le scale. Si racconta che per ore le fiamme scaturirono attraverso le feritoie della struttura. Il calore provocò la fusione della campana, che era stata montata sulla cima proprio come allarme in caso di avvistamento di un incendio, e il metallo colò fino al basamento. Due terremoti, uno nel 1399 e uno nel 1505, provocarono nuovamente la caduta della campana. Nel 1513 una palla da cannone sparata durante le celebrazioni per l'elezione di Leone X colpì la torre, mentre nel 1755 un fulmine causò uno squarcio lungo 60 metri. Non dimentichiamo poi che durante la Seconda Guerra Mondiale gli aviatori alleati scommisero su chi sarebbe stato il primo ad abbatterla durante i bombardamenti. Fortunatamente nessuno vinse la scommessa. Anche il terremoto dell'Emilia del 2012 non le ha causato alcun danno. Nel corso dei secoli la Torre Asinelli è servita per verificare le condizioni meteorologiche, ma è stata anche una prigione. Nel XV secolo venne appesa all'esterno una gabbia per religiosi delinquenti. La rocchetta di cui è circondato il basamento è stata fatta costruire nel 1488, in epoca bentivolesca, per ospitare i soldati di guardia e comprende una cella in cui venivano temporaneamente rinchiusi i rei di schiamazzi notturni. Bentivoglio fece ristrutturare anche la cima della torre, aggiungendo le merlature in stile rinascimentale. Nel 600 la Torre Asinelli è stata utilizzata come strumento scientifico, prima dall'astronomo Giovanni Battista Riccioli per verificare le leggi del moto uniformemente accelerato e poi da Giovanni Battista Guglielmini, che eseguì qui le osservazioni sulla deviazione dei gravi per dimostrare il moto rotatorio della Terra. Guglielmini eseguì i suoi esperimenti durante la notte per evitare qualsiasi interferenza dovuta al passaggio dei carri. Costruì un congegno apposito per far cadere 16 sfere di piombo e posizionò sulla base una tavoletta di cera. Il Guglielmini misurò uno scarto di 19 mm verso est e 12 mm verso sud, provando così la rotazione terrestre con 50 anni di anticipo rispetto al pendolo di Foucault. L'incrocio di fronte alle due torri è uno dei più importanti di Bologna, dato che collega alcune delle strade principali della città. Se vi sembra che nonostante la ZTL oggi ci sia troppo via vai di autobus, taxi e ciclomotori, pensate che nel 1871 venne rimossa la statua di San Petronio proprio per motivi di traffico. Le due torri erano cinque.